Ciao a tutti cari amici di Radio Wombat, qui è Nina dell'Accademia della Brusca che vi parla e mi prendo una piccola licenza dalla trasmissione che conduco ormai da 2 anni con la mia cara Nenia per raccontarvi non una ma 4 storie. 4 storie sul tema della maschera che ci aiuteranno, spero, a superare questi giorni di reclusione forzata per molti di noi. E proprio parlando di un tema ormai immaginifico che caratterizza la storia dell'uomo da sempre, e perché la maschera è quell'elemento che è in grado di contenere, no? Contiene il comico, contiene l'orrorifico e soprattutto cela quelli che sono i nostri tratti reali, esteriori ma anche interni. E quindi cosa c'è di meglio? Approfittiamo di questo periodo piuttosto scuro per raccontarci qualche storiella dell'orrore, del terrore. Io vi leggerò Schwab, Meyring, Maupassant e Poe. Sono 4 racconti tratti da un libercolo che si chiama Dentro la maschera di Abe Editore, fa parte della collezione Piccoli Mondi. E sono storie tutte diverse, molto tenebrose, e che spero vi tengano compagnia, ma soprattutto riescano ad aprirvi un mondo di immaginazione almeno per le prossime 2 settimane. Buon ascolto. Gustav Meyring, L'uomo sulla bottiglia, Der Mann auf der Flasche, 1904. Melanchthon ballava con il pipistrello, che aveva la testa in giù e le zampe in su. Con le ali avvolte lungo il corpo e tra gli artigli un cerchio d'oro rivolto ritto verso l'alto, come a voler dare a intendere che se ne stava a penzoloni da qualche parte. Aveva un aspetto alquanto strano e doveva aver fatto un'impressione singolare su Melanchthon che, danzando, era stato costretto a guardare attraverso quel cerchio che arrivava esattamente all'altezza del suo viso. Alla festa del principe persiano era una delle maschere più originali e anche una delle più spaventose, questo pipistrello. Persino il padrone di casa, sua altezza serenissima Muhammad Dara Shekoh, l'aveva notata. «Bella maschera, ma io ti conosco», gli aveva sussurrato, suscitando grande ilarità tra i vicini ospiti. «È certamente la marchesina, l'amica intima della principessa», rifletteva un consigliere comunale olandese vestito alla Rembrandt. «Non avrebbe potuto essere altrimenti». Conosceva ogni angolo del castello, a sentir dir lui. Poc'anzi, quando una moltitudine di cavalieri aveva avuto la glaciale idea di farsi portare dal vecchio cameriere personale stivali di feltro e fiaccole per lanciarsi le palle di neve fuori nel parco, e nella quale occasione il pipistrello si era lasciato andare ai ruzzi più sfrenati, avrebbe potuto scommettere di aver visto risplendere al suo polso un bracciale di giacinto a lui ben noto. «Interessante», si intromise una farfalla. «Melanchthon avrebbe dovuto ficcanasare un po', con prudenza, per sapere se il conte de Fast sia davvero, stando a quanto si dice ultimamente, il galletto della principessa». «Attenta maschera, bassa la voce», la interruppe serio il consigliere olandese. «Per fortuna la fine del valzer è stata suonata in fortissimo. Il principe era qui fino a pochi attimi fa». «Sì, sì, meglio tacere su certe faccende», mormorò una nubia egiziana. «La gelosia di questi asiatici non conosce confini». «E forse nel castello si è accumulato molto più materiale esplosivo di quello che immaginiamo. Ormai da tempo il conte de Fast gioca con il fuoco, e se solo Dara Shekoh sapesse». Una rozza figura scarmigliata, rappresentazione di un gomitolo arrotolato, mentre fuggiva l'impazzata da un guerriero ellenico dall'armatura scintillante, si fece largo tra le maschere, le quali guardarono increduli i 2 personaggi che sfrecciavano scattanti sul pavimento di pietra levigato. «Di un po', Miner Canitverstan, se tu fossi un nodo gordiano, non avresti paura di essere reciso, sapendo di avere Alessandro Magno alle calcagna?» disse il pipistrello capovolto per schernire l'olandese, e gli sfiorò il naso serioso con il ventaglio. Ehi, ehi, bella marchesina pipistrello. Lo spirito arguto si tradisce sempre, la punzecchiò il signorotto Hans, uno spilungone con coda ai piedi di cavallo. Peccato, un vero peccato che ti si possa vedere solo in forma di pipistrello, zampina all'insù e testa all'ingiù. Qualcuno scoppiò in una risata sguaiata. Tutti si girarono e videro un uomo vecchio e grasso con braghe larghe e testa di bue. Ah, era il presidente in pensione del Tribunale del Commercio, disse laconico il signorotto Hans. Si udirono allora dei suoni sordi. Oscillando una campana di bronzo, un boia con indosso una toga della Fem Vesfaliana prese posto al centro della grande sala, appoggiandosi alla sua scure scintillante. Da nicchie e loggiati sgorgavano le maschere. Arlecchini, ladies with the rose, cannibali, ibis e gatti con gli stivali, cinque di picche, cinesi, poeti tedeschi con la scritta solo un quarticello d'ora, Don Chisciotte e cavalieri alla Wallenstein, colombine, bacadere e tessere di domino di tutti i colori. Il boia in rosso distribuito a volette d'avorio con la scritta dorata tra la folla. È il programma dello spettacolo. Cosa? Uno spettacolo di marionette del principe in persona? Sarà una scena tratta dalle Mille e una notte? Chi sarà mai la dama della portantina? Si udivano voci incuriosite domandarsi tutto questo alla rinfusa. Ci attendono ancora sorprese incredibili quest'oggi, sì sì, cinguettò una graziosa incroyable in ermellino che andava sotto braccio con l'abate. Sai quel perro con cui ho parlato la tarantella prima? È lui il conte de Fast, l'uomo nella bottiglia, e mi ha fatto delle confidenze. Le marionette diventeranno spaventosamente inquietanti, ma sai, solo perché riuscirà ad afferrare. E poi ci sarà un elefante d'Amburgo, ordinato per telegrafo dal principe stesso. Ma non mi stai ascoltando affatto. Seccata, la piccola creatura lasciò il braccio dell'accompagnatore e corse via. Dalle stanze vicine, attraverso le ampie porte a battenti, arrivarono nel salone altri sciami di maschere che si dispiegavano verso il centro e camminavano alla rinfusa in un eterno gioco di colori cangianti, simile a quello di un caleidoscopio. Alcune di loro si raggruppavano in prossimità delle pareti per ammirare i bellissimi affreschi del ghirlandaio che incorniciavano il salone fiabesco fino al soffitto blu punteggiato di stelle. La sala sembrava l'iridescente isola della vita, lambita da paesaggi di fantasie policrome che una volta destate in cuori di artisti palpitanti di gioia, sussurrano una lingua semplice e lenta, ormai appena comprensibile all'orecchio delle anime in corso dell'oggi. Tra l'ondeggiante folla spensierata, i camerieri servivano rinfreschi, sorbetto e vino in tazze d'argento. Delle sedie venivano sistemate nelle nicchie delle finestre. Le tende sul lato corto della sala si ritirarono gracchianti e dal buio venne lentamente srotolato un palco con una cornice gialla e marrone e i denti bianchi che spuntavano dal bordo superiore e da quello inferiore. Eccole, le profonde fauci stilizzate di una tigre. Al centro della scena si innalzava un'enorme bottiglia sferica, in vetro molto spesso, ampissima e quasi alta quanto due uomini. Le colossali porte d'avorio si spalancarono e con una maestosa calma fece il suo ingresso in sala un elefante, addobbato d'oro e gioielli preziosi. Il boia in rosso lo guidava sulla groppa con il bastone della sua scure. Dalle punte delle zanne ciondolavano catene d'ametiste e sussultavano pennacchi di piume di pavone. Sulla tigre erano invece appese coperte in tessuti d'oro con nappe rosso sangue che scendevano lungo i lati fino al pavimento. Con l'enorme fronte coperta da una rete di sfavillanti pietre preziose, l'elefante avanzò placidamente lungo la sala. Le maschere lo circondarono in massa e lo salutarono con grida di giubilo, uno stuolo colorato di nobili attori seduti sulla portantina sistemata sul dorso dell'elefante. Ecco il principe d'Arachecò, con turbante e ornamenti di airone. Al suo fianco il conte de Fast, mascherato da Pierrot. Marionette e musicanti se ne stavano sdraiati, rigidi e immobili, come burattini di legno. In prossimità del palcoscenico, aiutandosi con la proboscide, l'elefante sollevò a uno gli uomini dalla portantina. Applausi ed euforia quando afferrò Pierrot e lo infilò nel collo della bottiglia. Poi richiuse il coperchio di metallo sopra il quale mise a sedere il principe. I musicanti si disposero a semicerchio e tirarono fuori strumenti dalle fattezze singolari, sottili, belli e spettrali. L'elefante rimase a guardare, serio, poi si girò lentamente e tornò indietro verso l'entrata. Come bambini esuberanti e scatenati, le maschere si appendevano frotte alla proboscide, alle zanne e alle orecchie per trattenerlo tra le grida. L'animale percepì a malapena gli strattoni. Thank you. Lo spettacolo ebbe inizio. Si udì provenire da qualche parte, forse dal pavimento, una musica appena percettibile. Gli orchestrali e le marionette erano immobili, senza vita come statue di cera. Il suonatore di flauto fissava il soffitto con uno sguardo vitreo e inebetito. I lineamenti della direttrice rococò in parrucca e capello in piume, con la bacchetta sollevata come se fosse in ascolto di qualcosa e le punte delle dita appoggiate sulle labbra con un fare misterioso, erano distorti in un terrificante sorriso voglioso. In fondo al palco le marionette, un nano gobbo dal volto di gesso, un diavolo con un ghigno sinistro e una cantante con un trucco sbiadito e bramose labbra scarlatte, segnate da malignità satanica, parevano conoscere un segreto spaventoso che le pietrificava in crampi di piacere. L'orrore terrificante della morte apparente aleggiava sul gruppo impassibile. Solo Pierrot, nella bottiglia, continuava a muoversi inquieto. Agitava il suo cappello in feltro appuntito, si piegava e di tanto in tanto salutava il principe persiano seduto sul coperchio della bottiglia, immobile e a gambe incrociate, per poi ritornare a fare strane boccacce. Gli spettatori si divertivano a guardare i suoi salti nell'aria, quali sembianze grottesche assumeva. Le pareti di vetro così spesse deformavano il suo sguardo in modo del tutto inusuale. Gli occhi scintillanti sembravano dapprima fuoriuscire dalle orbite e poi scomparire, lasciando solo fronte e mento, oppure davano vita a un viso triplo, da grasso e gonfio, diventava di nuovo scheletrico e con gambe lunghe come un ragno, poi la pancia si gonfiava come un pallone. Ciascuno lo vedeva con sembianze diverse attraverso il vetro della bottiglia. A intervalli brevi e regolari, senza alcun nesso logico riconoscibile, le figure venivano scosse da uno spettrale fugace anelito di vita e ritornavano subito al precedente stato di mostruosità rigida e cadaverica. Pareva che l'immagine zampettasse sugli interstizi morti, passando da uno stato all'altro come la lancetta di una torre d'orologio saltella da un minuto all'altro in un sogno rarefatto. Le figure avevano concluso tre passi di danza spettrali a fianco della bottiglia, piegando le ginocchia in balzelli scattanti, mentre dietro di esse un bambino deforme si contorceva in un lamento dissoluto. Uno dei musicanti, un baschiro dallo sguardo dissennato, senza ciglia e la testa a forma di pera, fece un cenno d'assenso e con un'espressione di scelleratezza spaventosa drizzò le sue orribili dita, che terminavano sfericamente come estremità di bacchette da percussioni. C'era i simboli di una mostruosa degenerazione. Poi, vicino alla cantante, comparve un bellissimo ermafrodita, con mutandoni in pizzo larghi e lunghi, e si immobilizzò mentre saltellava. Come una boccata d'aria fresca che ha un effetto solenne nel bel mezzo di una tale pausa d'inerzia, dal fondo arrivò sulla scena una portantina chiusa, in legno di sandalo, trasportata da due mori che l'appoggiarono in prossimità della bottiglia, sulla quale improvvisamente risplendeva dall'alto una luce pallida da chiaro di luna. Gli spettatori sembravano così divisi in due schieramenti, quelli che, impietriti e ammutoliti, assistevano stregati alle surreali ed enigmatiche danze vampiresche delle marionette, che sprigionavano un'aura demoniaca di oscuro desiderio avvelenato, e gli altri che, invece, troppo rozzi per simili turbamenti dell'anima, non riuscivano a smettere di ridere per le buffe movenze dell'uomo nella bottiglia. Gli spassosi balletti erano ormai terminati, ma le sue movenze non risultavano meno buffe di prima. Con tutti i mezzi possibili aspirava palesemente a far capire al principe, che se ne stava seduto sul coperchio della bottiglia, qualcosa che gli sembrava estremamente urgente. Sì, dava proprio colpi contro le pareti di vetro e ci saltava dentro, come a volerle distruggere o a voler buttare giù l'intera bottiglia. Al contempo sembrava urlasse ad alta voce, sebbene non si potesse udire il benché minimo rumore attraverso il vetro spesso. Alla pantomima e alle contorsioni di Pierrot, il principe persiano rispondeva di tanto in tanto con una risatina, oppure indicava la portantina con il dito. La curiosità del pubblico raggiunse l'apice quando si notò chiaramente che, in uno di questi istanti, Pierrot premette a lungo il volto contro il vetro, come a voler riconoscere qualcosa in lontananza, sul finestrino della portantina. All'improvviso, però, si afferrò la testa tra le mani come un matto. Sembrava aver intravisto qualcosa di terrificante. Si accasciò sulle ginocchia, arruffandosi i capelli. Poi saltò in piedi e cominciò a correre in circolo a una velocità tale che le distorsioni del vetro lo facevano sembrare a tratti né più né meno di una pezzuola bianca svolazzante. Intanto, tra il pubblico, intenso era lo scervellarsi su come stessero davvero le cose riguardo alla dama nella portantina. Premuto contro il finestrino della portantina, si riusciva infatti a scorgere un volto di donna rivolto con lo sguardo fisso verso la bottiglia. Tutto il resto, però, era celato nell'ombra e non restava che tirare a indovinare. «Quale vuol mai essere il senso di questo sinistro spettacolo di marionette?» bisbigliò il domino blu e si strinse impaurito al signorotto Hans. Concitati, ci si scambiava le proprie opinioni con voce sommessa. Lo spettacolo non ha un vero e proprio senso, solo quello che non ha significato per la mente e riesce a trovare la via segreta verso l'anima, rifletteva una salamandra. E così, come se ci fossero esseri umani che alla vista di secrezioni acquose di cadaveri esangui, smossi da eccitazione erotica, possano emettere urla stremate d'estasi, di certo ci sono anche, per farla breve, il desiderio è figlio dell'orrore, la interruppe il pipistrello. Credetemi, il mio corpo attraversato da brividi di turbamento. C'è qualcosa di spaventoso e indicibile nell'aria che non riesco a scrollarmi di dosso. Mi continua ad avvolgere come un pesante drappo. Viene dallo spettacolo delle marionette? Io dico di no. Sgorga dal principe d'Arachecò. Perché rimane seduto lì sopra, sulla bottiglia? Perché? Apparentemente impassibile. Eppure di tanto in tanto il suo volto è percorso da un sussulto. Qualcosa di orribile sta accadendo qui, il pensiero non mi abbandona. Credo di aver trovato un significato simbolista e quello che hai appena detto si sposa perfettamente con quello che penso, disse Melanchthon inserendosi nel discorso. L'uomo nella bottiglia non sarà dunque la rappresentazione dell'anima rinchiusa degli esseri umani che è costretta, impotente, a stare a guardare come i sensi, ovvero le marionette, si sollazzano sfrontati e come tutto si disintegra inesorabilmente la rincorsa dei vizi. Risate fragorose e applausi interruppero il discorso. Pierrot si stava rotolando sul fondo della bottiglia afferrandosi il collo tra le mani. Spalancava ripetutamente la bocca e con violenta disperazione indicava il suo petto e verso l'alto. Infine congiungeva le mani in un gesto di supplica, come a voler chiedere qualcosa al pubblico. «Vorrà qualcosa da bere? Una bottiglia così grande senza nemmeno un po' di vino? Marionette, dategli da bere!» gridò uno spettatore. Tutti ridevano e applaudivano. Con un salto, Pierrot si rimise in piedi, si strappò di dosso i vestiti bianchi e ricadde lungo sul fondo della bottiglia percosso da un sussulto. «Bravo, bravo Pierrot, una bellissima interpretazione! Bis, bis!» acclamava il pubblico. Ma l'applauso cominciò lentamente a scemare quando il conte non fece più alcun movimento, né accennava a ripetere la scena e l'attenzione del pubblico si rivolse allora verso le marionette. I burattini erano fissi nella stessa posizione spettrale assunta poc'anzi, eppure ora si percepiva una sorta di tensione nelle loro espressioni che prima non era presente. Si aveva l'impressione che attendessero un cenno. Il nano gobbo, con il viso di gesso, girò infine con prudenza lo sguardo verso il principe d'Arachecò. Il persiano non si mosse, i tratti del viso deperiti. Infine, dai personaggi sul fondo, uno dei mori si avvicinò esitante alla portantina e aprì lo sportello. A quel punto accadde qualcosa di molto insolito. Un corpo nudo di donna cadde rigido sul pavimento con un tonfo sordo. Silenzio tombale. Poi centinaia di voci cominciarono a urlare alla rinfusa e la sala ne fu invasa. «Cosa succede?» Marionette, scimmie, musicanti, tutti saltarono in aria. Le maschere si precipitarono sul palcoscenico. La principessa, la sposa di d'Arachecò, giaceva a terra, completamente nuda, legata a un palo d'acciaio. I punti in cui la pelle era tagliata dalle corde erano segnati dai chimusi di colore blu. Un bavaglio di seta infilato in bocca. Un raccapriccio indescrivibile paralizzò gli sventurati spettatori. «Il Pierrot!» urlò una voce all'improvviso. «Il Pierrot!» Una paura folle e imprecisata attraversò i cuori di tutti come un colpo di pugnale. «Dov'è il principe?» Il persiano era scomparso nel tumulto, senza lasciare traccia. Melanchthon era arrivato sulle spalle del signorotto Hans. Niente, non riusciva a sollevare il coperchio della bottiglia e la piccola valvola di reazione era chiusa. «Rompiamo il vetro, forza!» Il consigliere olandese strappò la scure dalle mani del boia in rosso e con un balzo arrivò sul palcoscenico. Dai colpi, che si abbattevano sulla bottiglia, riecheggiava un suono rassomigliante a una campana rotta, un suono mostruoso. Le crepe profonde nel vetro guizzavano come fulmini bianchi e la lama dell'ascia si incrinò. Infine, alla fine, la bottiglia si frantumò a mille pezzi. Ne uscì a terra, soffocato, il cadavere del conte de Fast, le dita affondate nel suo petto. I giganteschi uccelli neri dell'orrore attraversarono invisibili il salone delle feste, sbattendo le ali senza fare rumore. Thank you.